Diciamo, l'altra volta c'è stata tanta delusione perché ci aspettavamo di portare a casa una medaglia, perché tutto l'anno avevamo collezionato un sacco di medaglie in giro per Coppe del Mondo e Grand Prix, e accontentarsi del quinto posto è stata dura da accettare. Certo, quindi diciamo stavolta più che al contorno si guarderà la sostanza, da quello che mi dici. Sì. E, ecco, ovviamente. Da questo punto di vista c'è anche dal punto di, sotto il profilo psicologico un approccio diverso per non farsi incantare da quello che vuol dire un'Olimpiade per ognuno di voi. Sì, la prima volta sembra di andare nel paese dei balocchi, stavolta invece è ragionata completamente in maniera diversa. Poi voi che è più vicina, quindi avremo tanti problemi in meno, tra cui il fuso orario, non dover stare troppi giorni, perché a Pechino alla fine siamo stati 26 giorni, parecchi giorni prima della gara, sta gara che non arrivava mai, e avemmo difficoltà ad avere le strutture per allenarci nel frattempo che cominciasse la gara, quindi fu un po' problematica come situazione. Questa volta confidiamo che vada tutto nel verso giusto, insomma.